slick chick. See, a neat chick. The C's part of makes me tick. Mama, hey, hey, hey. Clickety click, a slick chick. Hey, hey, hey, hey. The hot heels on for the very first time. What a sack. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, yeah, yeah. It was a night. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Everybody stopped, we're on a dime to look. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. Yeah, yeah. She's my clickety click, I'll stick chick. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She's a neat chick, but she oughta make me tick. Mama, clickety click, I'll stick chick. Yeah, don't you know she's a slick? Mama, click it, click, I'll fix it. Yeah, yeah. I got a crazy little chick. I don't you know she's slick. Ben ritrovate, Slick Chick, Radio Wombat, 20 e 42, sono in ovvio ritardo come peraltro sempre, quindi si potrebbe anche non chiamare più ritardo, si potrebbe chiamare l'orario canonico, eh? Che ne dite, come sono paracula oggi? 12 marzo, ovviamente del 2019, puntata di Slick Chick dedicata quest'oggi, visto che la scorsa puntata mi sono dedicata ai gattini e peraltro secondo me è stata una delle puntate più, con più successo in assoluto, per dove si dimostra appunto l'importanza dei gattini, ma ora non voglio rientrare dentro questo argomento che ho già abbondantemente trattato. E dopo questa appunto digressione tra i meravigliosi animaletti, volevo buttarmi su qualcosa di un po' più... Ora, non che i gattini non siano seri, però ecco, rimettersi un po', come dire, stiracchiarsi un po' il colletto della camicia e fare le persone un po' più serie. E quindi vi parlo di lettere epistolari, lettere, conversazioni via carta. E quindi ovviamente c'è un sacco di musica che si è dipanata a partire dalle lettere e si è ispirata a appunto rapporti epistolari. Ovviamente ho dovuto stringere come facciamo sempre, perché comunque Slick Chick dura un'oretta, quindi non è che potevo tediarvi più di tanto, e quindi ho dovuto un po' scremare veramente il milione di canzoni e brani musicali che avrei potuto scegliere. Allora, siccome la musica però è comunque tantissima, c'è una scaletta bella densa, io direi di non soffermarsi troppo all'inizio e farvi ascoltare subito un po' di musica, anche perché che vi devo dire sulle lettere? Più o meno, insomma, si spiega, è autoesplicativo, no, il tema. E quindi vi faccio ascoltare subito il primo brano di questa scaletta, che tanto per iniziare così un po' a bomba, sono La Quiete, un gruppo che incredibilmente penso di non aver mai messo a Slick Chick, un po' colpevolmente, e quindi insomma devo rimediare. La Quiete, amici di vecchia data che non suonano più, ma hanno suonato un bel po' anche da queste parti, e hanno, tra le varie brani che hanno scritto, ne hanno fatto uno che si intitola Lettere che avevo intenzione di scrivere, perché in effetti le lettere non è che sempre vengono scritte, a volte ti rimangono un po' sulla lingua, le lasci un po' lì, ti rimangono strette in gola, e questa evidentemente è una di quelle. In quanto a Gola li conoscerete, La Quiete sono uno dei gruppi più importanti dello scrimo italiano, quelli che hanno un po' portato lo scrimo italiano italiano a essere un po' più conosciuti nella scena di Forlì, non solo in realtà, usciti fondamentalmente per la Sons of Vesta. L'album dal quale è tratto questo brano è Tempeun del 2006, ovviamente un'autoproduzione. Sons of Vesta, come vi dicevo, la meravigliosa etichetta che fa sempre uscire cose molto interessanti, e quindi ascoltateveli. Sì, come tutti i pezzi scream hardcore che si rispettino, sono abbastanza corti, giusto però per darvi un'idea di dove stiamo andando a parare subito già in partenza. E direi che continuiamo peraltro, perché poi dopo faremo insomma, cambieremo completamente genere, come penso ormai siete abituati. Insomma, Slick Chick salta becca di qua e di là nei generi musicali, quindi insomma sarà un inizio così, ma poi non vi preoccupate, oppure insomma vi preoccuperete, ma insomma cambieremo anche un po' genere. Però proseguiamo con i Dead Kennedys, perché ovviamente, dai, lo conoscerete sto pezzo. Comunque i Dead Kennedys, anche loro hanno avuto a che ridire sulla questione della posta. In particolare, un po' di non l'hanno presa proprio dall'angolazione che vi aspettate, perché nell'album, uno degli album più belli, poi fra l'altro almeno secondo me, di Dead Kennedys, Fresh Fruit for Rotting Vegetables del 1980, hanno inserito questo Stealing People's Mail, che poi, fra l'altro, se andate a leggervi il testo, fondamentalmente è un po' come in negazione quando dicono: noi rovesceremo l'orgoglio delle vostre automobili, ve lo ricordate, distruggeremo la felicità delle vostre domeniche. Però diciamo i Dead Kennedys con un po' più di sarcasmo e autoironia, almeno secondo me. We're going to the party, we're going to the game, we're going to the disco, and gonna cruise out, man. We're stealing people's mail, stealing people's mail, stealing people's mail, stealing people's mail, stealing people's mail, on a Friday night. Driving in the mountains, riding around, around, run just through your mailboxes, take your mail back to town, and we got money, so when it gets tax returns, checks about it just for me, paper, money, bills, and pretty funny pictures of your kids. Gonna steal your mail on a Friday night. We're gonna steal your mail like a candlelight. We got a grocery tab, we got a grocery tab, we got a grocery tab, we got a grocery tab, we got a grocery tab, we got a grocery tab, we're gonna find the lights of you. People say that we're crazy, we're sinking all alone, but when we reach our letters, Stiamo andando un po' così a bomba e quindi per prendere un po' di tempo vi dico i social Wombat che non vi avevo ancora detto in apertura. Il sito wombat.noblogs.org, beh, d'altra parte lo saprete perché probabilmente ci state ascoltando tramite il sito attraverso la bella iconciona del Wombat su cui avrete cliccato e sarete arrivati su una pagina che vi dice streaming e ci avete ascoltato, probabilmente siete lì per questo, o altrimenti ci state ascoltando dalle onde mediocri, dalla frequenza 1359 in AM oppure MW come preferite, appunto in onde medie. Se siete ovviamente fortunati e fortunate da essere raggiunti dal nostro Wombat segnale, cosa che non è assolutamente detta, ma per i più fortunati di voi, insomma, sapete che avete questa delizia in più che vi accompagna. E poi vi ricordo anche la casella di posta, postawombat@insiberia.net, alla quale potete scriverci tutti i vostri rimproveri, i vostri consigli, i vostri complimentoni. E beh, poi fondamentalmente questo, tanto tutte le volte ve lo ripeto, ormai dovreste essere più bravi di me, dovreste esservelo tatuato, e quindi non mi resta che andare avanti. The Dickies, questi secondo me non li conoscete, o perlomeno li conoscete meno, sono sempre, rimaniamo abbastanza sul punk, anche se qui siamo ai primordi, siamo già nel 79, quindi non proprio i primordi, però è un punk un po' più garage, diciamo. Comunque il brano si chiama Fan Mail, l'album è Dawn of the Dickies, perché si tratta qui di la classica mail del fan. Avete presente? Cioè, chi di voi non riceve mail dei fan continuamente? Cioè, infatti io prima avevo detto la casella di posta, ma sapete quante mail che ci arrivano dei fan, proprio gente che si strappa i capelli, ci manda cioccolatini, è così, è una tragedia di essere famosi. E quindi anche i Dickies si lamentano molto, penso che anche loro insomma ricevessero infinite lettere dai loro fan, si lamentano perché appunto sono generalmente lettere ossessive, un tantino maniacali, anche un po' inquietanti, e quindi ci raccontano tutto ciò attraverso questa fan mail. Tra l'altro di questo brano esistono altre cover, ma probabilmente la più famosa e secondo me in realtà però più noiosa è quella dei Blondie, forse conoscerete più facilmente questa versione. Yeah. Beh, insomma, garage fino a un certo punto, beh, comunque saltellante. E continuiamo con Pete Seeger. Ve l'avevo detto che si cambiava, e voi dovete vedere dopo ancora dove vi porterò. Allora, Pete Seeger, Mail Myself to You. Circa del 1963, inizio anni 60, insomma, ovviamente un live, come quasi tutta la musica di Pete Seeger. Allora, generalmente le lettere si scrivono quando si è lontani, no? Cioè, se no, che te le scrivo a fare? La lontananza stimola la malinconia, ma anche l'ingegno. E quindi, insomma, Pete Seeger che fa? Decide di infilarsi in una busta di carta e spedirsi per posta. Che io la trovo un'immagine meravigliosa e anche un'idea, insomma, ottima. Ovviamente, certo, è un po' fastidioso doversi togliere la colla del francobollo dalla faccia, infatti Pete Seeger lo dice, è un po' così, un po' noioso, ci si stropiccia un po' dentro la cassetta postale, ma il risultato è ottimo, insomma, cioè, track, sei subito lì. Altro che stupidi treni ad alta velocità. I'd rather see songs like the one that Woody Guthrie wrote for his kids. I'm a gonna write. I'm a gonna wrap myself in paper. I'm a gonna daub myself with glue. Stick some stamps on the top of my head. I'm a gonna mail myself to you. I'm a gonna tie me up in a little red string. I'm a gonna tie blue ribbon too. Climb up into my mailbox. I'm a gonna mail myself to you. And then my postman comes and takes me out of the mailbox and takes me downtown to the post office. And they put me on a big train in a big sack. And then it gets to your city and they take the sack and they throw it off the train and they take me up to your post office and your postman comes and takes me down the street to your house. When you find me in your mailbox, cut the string and let me out. Wash the glue off of my fingers, stick some bubble gum in my mouth. Take me out of my wrapping paper, wash the stamps off of my head, pour me full of some ice cream sodas, tuck me into a nice warm bed. I'm a-gonna wrap myself in paper, I'm a-gonna daub myself with glue, stick some stamps on the top of my head, I'm a-gonna mail myself to you. Grandi applausi ovviamente all'inventiva, penso, non tanto alla musica. E perché tutti avrebbero voluto avere un'idea del genere e farla soprattutto. Da Pete Seeger proseguiamo, sempre rimaniamo un po' nel cantautorato, nel folk, anche se insomma poi è un po' diversa la questione. Arriviamo a Enzo Iannacci. Enzo Iannacci scrive una lettera da lontano nel 2001 nel disco Come gli aeroplani e fa questa lettera tristissima, cioè una roba che proprio ti ammazza. Perché siamo partiti un po' alle grotti e vi dovevo a un certo punto buttare una incudine addosso per farvi passare il sorriso. Ecco, grazie a Enzo Iannacci, state tranquilli che il sorriso ve lo togliete. La cosa interessante di questa lettera da lontano, di cui lo sentirete, insomma, è un Iannacci che si toglie, direi, diverse soddisfazioni. Dentro la versione originale, a un certo punto, lo sentirete, si parla di la lettera per Silvia Barardini, non servirà a niente ma almeno saprà che le siamo vicini, che è quella contenuta nell'album, per l'appunto, nel 2001. Poi però venne Genova, venne il G8 e Iannacci dal vivo in tutti, penso tutti, comunque iniziò nei suoi live a dire, a sostituire a Silvia Barardini a Carlo Giuliani e quindi fece questa dedica che non è assolutamente banale che facesse, ecco, non era banale prima, figuriamoci adesso. E quindi ha fatto un po' questa dedica. La versione che vi faccio sentire invece è quella dell'album, perché si trova questa, insomma, questa è, e quindi sentirete invece la dedica alla Baraldini, che comunque, insomma, direi che ci sta comunque bene, ecco, per carità. Lettera da lontano, lettera da seguire le parole con l'indice di una mano, lettera scritta fuori dai denti, lettera senza firma, lettera con pochi argomenti, lettera dal carcere, lettera scritta da un minore, lettera che non capisci, se sei tu che non vivi o se è lui che non muore. Lettera di un cantante, lettera profumata come quella di una vecchia amante, lettera che ti penso, lettera che più che la guardo e più mi sembra senza senso, lettera che sembra una canzone d'amore, lettera con troppi diesis e pochissimo cuore, lettera per Silvia Baraldini, non servirà a niente ma almeno saprà che le siamo vicini. Lettera per chi ha solo rimorsi, da leggere a voce alta ma a piccoli sorsi, lettera piena di guai, lettera per chi era in guerra e di lettere non ne riceveva mai. Lettera per mio figlio che mi ha guardato cantare come fossi io il figlio. Lettera per mia moglie che non ha avuto un marito, ha avuto solo le doglie. Lettera ha vissuto tutta la vita accompagnato solo dalla sua miseria, dalla sua dignità, dalla sua morte, dalle sue emozioni. Lettera che ha visto sparire insieme al sole la sua malattia, poco per volta tutte le sue illusioni. Lettera che si rifiuta di accettare comici, musicanti, poeti, medicastri, cantori di canzoni. Lettera per il mio pianoforte, che è l'unico a non avermi fatto uscire con tutte le ossa rotte. Lettera per il tempo, che a vent'anni nessuno ti dice che vola via come un tipo particolare di vento. Lettera a Vasco Rossi, mi piace sentirgli dire che oggi è spento. Lettera a chi ha avuto il coraggio di sfidare assassini, bugiardi, solo mezzi imbroglioni. Lettera consegnata a voce, a tutta la gentile, normale, ipocrita massa di rompicoglioni. Quando ci vuole, ci vuole. Se siete sopravvissuti e sopravvissute, adesso il premio è che vi beccate un brano che vi farà sicuramente sentire meglio. Un classico del soul Motown, un singolo peraltro di debutto delle Marvelettes. E già, probabilmente state pensando esattamente il pezzo giusto. Tra l'altro c'è Marvin Gaye alla batteria, se aguzzate le orecchie. E, please, Mr. Postman, ovviamente, si rivolge qui direttamente al postino, perché quando chiami è a combattere una stupida guerra e tu aspetti frenetica che il postino ti porti una lettera, evidentemente, ecco, il postino è il tuo referente principale. 1961, di lettere dal fronte o per il fronte parlano in diversi brani musicali, che anche tra quelli che vi faccio sentire oggi. Questo, incredibilmente no, però ecco, non si direbbe così dal tono allegrotto, ma questo è uno di quelli. Avranno notato i più affezionati e affezionate al nostro Wombat, ci sono delle grandi novità in corso nel nostro palinsesto. Forse ve ne sarete accorti guardando sempre sul sito wombat.noblogs.org e spronati dai nostri inviti, sarete andati a vedere sul palinsesto e avrete scoperto che ci sono nuove trasmissioni. Ad esempio, ve le dico un po' velocemente: il martedì a mezzogiorno c'è Carta Canta. È una trasmissione di informazione che cerca di approfondire alcuni temi d'attualità, diciamo, Non proprio tutti i martedì, ogni tanto zompa, ma ecco, la regola direbbe che è il martedì intorno a mezzogiorno e ovviamente poi in replica ogni tanto durante la settimana. Poi il mercoledì vi segnalo anche alle 13 in alternanza in punta di pedali una nuova trasmissione, L'Urlo dei Balcani, che come molti di voi sapranno era in origine come dire, una rubrica di Fuoco alle Polveri e poi si è trasformata in uno spin-off, secondo me sì, è uno spin-off, e quindi è diventata una trasmissione autonoma e quindi ci parla dei Balcani, della sua musica, della sua attualità, di quello che succede da quelle parti. Un mercoledì sì e un mercoledì no, alle 13, appunto alternato con In punta di pedali. E poi un'altra trasmissione che sta per partire, forse la prossima settimana, forse quella dopo, non si sa, ma insomma a brevissimo, tenetevi pronti, è Sessione Notturne, il giovedì alle 16:30 in diretta e poi in replica nel corso della settimana, una trasmissione che finalmente ci colma questo vuoto che si era creato dopo l'abbandono precoce di Mortal Wombat. Finalmente torniamo anche su Radio Wombat a parlare un po' seriamente di hip hop, rap e tutta quella galassia lì, e quindi Sessioni Notturne ci aiuterà in questo, a colmare la nostra nostalgia. Detto questo, vi do appuntamento, no, vi sprono ancora una volta a guardare il palinsesto, perché non sono le uniche novità queste. Come vi ho già detto altre volte, abbiamo ripasticciato tutto, abbiamo sistemato un po' gli orari, abbiamo colmato un po' di buchi, insomma, date un'occhiata che secondo me troverete delle novità interessanti. Proseguiamo invece con la nostra scaletta, che qua abbiamo ancora molta musica da ascoltare, e il prossimo brano è dei The Brothers, Brothers Johnson, Strawberry Letter Number 23 del 77, giusto per saltare appunto di palo in frasca. È un classico funk, lo sentirete, proprio classicone, smontato e rimontato in mille pezzi, campionato in brani pop, l'hanno usato un po' tutti. Ovviamente anche Tarantino, perché se non, figuriamoci se non aveva preso, ma era, a sua volta però è una cover di una canzone del 1971 composta da Shaggy Otis dall'album Freedom Flight. Fondamentalmente si parla di un rapporto epistolare tra due amanti e della lettera 23 che ha questa carta profumata alla fragola. From you, red magic satin playing near two. All through the morning rain again, the sun doesn't shine. Rainbows and waterfalls run through my mind. In the garden I see west purple shower bells, orange birds and river cousins dressed in green. Is it cool? If you arrive and don't see me, I'm gonna be with my baby. I'm free. Flying on over the sea. Stained window, yellow candy screen. See speakers of kites with velvet roses, they can freedom fly. From you. veniamo al tenerissimo Fats Waller che I'm gonna sit right down and write myself a letter. Mi siederò qui e mi scriverò da solo una lettera per scrivere che, per credere che me l'hai scritta tu. Tristezza, poverino, era un po' da piangere. Ci metterò baci in fondo, scriverò spero che ti senta meglio, la firmerò con amore. Sarà bellissimo riceverla. Ci sembra un po' Charlie Brown, no? Presente scriveva da solo i biglietti per San Valentino. Accompagnato al clarinetto da Rudy Powell e Bill Coleman alla tromba, scusate, del 1935. Fazzuella, mi piace tanto. Allora, adesso veniamo a un altro brano bellino, The Cure. Cioè, no, perché lo sapete, ormai mi conoscete, The Cure sono quel gruppo che dice delle cose tristissime e tremende, ma lo fa comunque con delle musichette tanto saltellanti, e con i campanellini e tutto, e quindi mette comunque allegria, anche se stai dicendo delle robe che probabilmente ti dovrebbero spronare al suicidio. Non è un caso tanto diverso questo brano, che si intitola A Letter to Elise, da Wish del 1992 l'album, e è stato probabilmente, a quanto pare, è stato influenzato da molte cose, Smith nel comporre questo brano, fra cui probabilmente una delle influenze più grosse fu Lettera a Felice di Franz Kafka. Allora, Felice fondamentalmente era la fidanzata di Kafka, o meglio, la fidanzata, insomma, bisogna vedere secondo chi, ecco. Questa ragazza incontrò Kafka il 13 agosto 1912, durante una visita a casa di Max Brod, la cui sorella Sophie, ora iniziate a prendere appunti perché è intricata la cosa, la sorella Sophie di questo Max Brod era sposata con un suo cugino. E quindi, vabbè, si conoscono, a quel punto si piacciono, Kafka la richiede come fidanzata. D'altronde, nel 1912 c'era un certo, cioè, si era lontano da Vilma, com'era Vilma da Milaclava, quella cosa lì, ma insomma, più o meno il tenore era quello. Ci furono diverse rotture e riprese del rapporto, un rapporto molto burrascoso, fino a quando nel 1917 a Praga, basta, si lasciarono definitivamente e questo tira e molla finì. Ma durante questi alti e bassi, che fondamentalmente vengono testimoniati nelle lettere che poi vengono recuperate tra i due, Felice chiede a un'amica, Grete Bloch, di fare da intermediaria. E riesce a ottenere da Kafka un fidanzamento ufficiale il 1 giugno del 1914. Tra l'altro, Grete Bloch, anche lei, si era fatta delle storie con Kafka, ma lì vabbè, non andiamo a indagare troppo. Il 12 luglio dello stesso anno, in un incontro a Berlino, Kafka rompe il suo fidanzamento. Insomma, una tragedia sua, una cosa burrascosa. E poi si ripigliano nel luglio del 17. Cercano casa e mobili per sposarsi, stavolta ci si fa, va benissimo, ok, la volta buona. Ma Kafka scopre di essere malato di tubercolosi e a quel punto si allontana e decide di non volerla più coinvolgere nella propria vita, probabilmente anche perché essendo malato non voleva che soffrisse. E insomma, basta, la allontana definitivamente. Ma le dedica il racconto La Condanna, che è un racconto famoso, tra l'altro, per essere stato scritto di getto in una sola notte. Nel 1919, Felice smise anche solo di vedere Kafka e si sposò poi con l'impiegato di banca Maras Moritz, che bello, no? Più anziano di lei di 14 anni. Dal matrimonio vennero due figli, bla bla bla, e vissero felici e contenti in una meravigliosa vita ordinaria e borghese, come si confà alla normalità. Nel 1931 la famiglia, a causa delle persecuzioni razziali naziste, si trasferì in Svizzera, da dove emigrò poi nel 1936 negli Stati Uniti. Insomma, una vita anche poi in realtà travagliata. Felice Bauer, in realtà per molti anni tenne per sé le lettere che le aveva scritto Kafka. Poi a un certo punto ebbe un problema di salute molto grave che la costrinse, per ragioni poi fondamentalmente economiche, a venderle. E quindi nel 1955 se le vendette queste lettere, quando ovviamente Kafka era strafamoso e queste lettere avevano un peso e un valore. Vendette all'editore Salman Shuken, e da lì noi siamo riusciti a, insomma, quantomeno a leggercele. Sicuramente mi immagino quanto saranno state allegre e piene di vita. E infatti, i Cure ovviamente ci sguazzano. ready for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spare. Got to get back to my baby. Lonely days are gone, I'm a going home. Baby, once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby sister wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby sister wrote me a letter. My baby sister wrote me a letter. Questa invece era The Letter, giusto per non essere didascalici, dei The Box Tops del 1967 ed è stata una delle canzoni più amate dai soldati americani durante la guerra in Vietnam. E, beh, poi insomma si sentono anche gli aerei, insomma anche lì si tratta fondamentalmente di un invito in realtà un po' alla diserzione, perché fondamentalmente quello che dice è: è arrivata una lettera dalla fidanzata che dice che mi ama, arrivederci e grazie, andatevene a fanculo, io piglio il primo aereo e me ne vado e me ne torno da lei, ma vaffanculo a voi la vostra guerra. E quindi chiaramente i soldati che si trovavano a combattere in Vietnam, ecco, se l'ascoltavano sta canzone di gusto, direi. Proseguendo nella nostra scaletta, ci mancano pochi pezzi, siamo quasi a fine, tre brani, sono stata brava oggi. Il primo di questi tre brani che ci separano dalla conclusione è Son House. Arriviamo nel blues, quello proprio più profondo, quello più roco. Son House con The Death Letter, no, perché sennò poi vi pigliava bene, lettera di morte. Son House, lo sentirete, suona una meravigliosa chitarra resofonica con il bottleneck e insomma si sente ed è bellissimo. Tra l'altro da lui hanno preso ispirazione in tantissimi bluesmen contemporanei e degli anni a seguire. Lo sentite, probabilmente vi ricorderà qualcosa di già sentito. Lo stile canoro di Son House ricorda molto quello delle Chain Gangs, ovvero i gruppi di prigionieri incatenati, costretti ai lavori forzati. E qui di cosa parla? È abbastanza qui uno standard blues tipico del tempo, una lettera, questo poveraccio che riceve una lettera dove gli si dice che la donna che lui ama è morta, e quindi ovviamente da qui si dipana una tristissima canzone dove si dispera. E d'altronde siamo nel blues più profondo, e che vi aspettavate? E anche qua in realtà proprio il tema della lettera di morte è un qualcosa tipico del blues, soprattutto di questo tipo di blues. In moltissimi hanno preso sia dallo stile di Son House, ma anche proprio dal tema. E è stato rifatto sia letteralmente una cover di questo brano, ma anche brani diversi che però fondamentalmente raccontavano la stessa storia. È il caso anche di Diamanda Galas, che ha fatto invece una cover precisa di Death Letter. D'altra parte era ovvio che Diamanda Galas fosse affascinata da questo tema, e cover che vi invito ad ascoltare, molto bella. Diamanda Galas che rifà il blues è, secondo me, insomma, una bellissima esperienza. Ma in questo caso vi faccio invece ascoltare proprio l'originale di Son House. Honey, gal, your love is dead. I got a letter this morning. How do you ring it red? You just say, hurry, hurry. I call a gal, your love is dead. Oh, I grabbed up my suitcase, took out down the road. When I got there, she's laying on a cooling board. I grabbed up my suitcase. I said, I took out down the road. I said, but when I got there, she's laying on a cooling board. Well, I walked up right close, looked down in her face. Said, good old gal, gonna be the judgment day. I walked up right close, I said, I looked down in her face. There's a good old girl gonna lay in a judgment day. The back of the 10,000 people standing round the burying ground. I didn't know I loved her till they let her down. Looked like 10,000 was standing round the burying ground. You know I didn't know that I loved her until I began to let her down. Well, I fooled up mom, I slowly walked away. I say, farewell, honey, I'll see you judgment day. Yeah, oh yes, I walked away. I say, farewell, farewell, I'll see you judgment day. You know I didn't feel so bad till the good old sun went down. I didn't have a soul to throw my arms around. I didn't feel so bad until the good old sun went down. You know it's so hard to love someone don't love you. Ain't satisfaction, don't care. What you do, yeah, it's so hard to love someone don't love you. You don't look like any satisfaction, don't care what you do. Well, I got up this morning to break a day, just hugging the pillows she used to lay. I said, soon this morning. Yes, it's a pretty good idea. In realtà penso che sia saltato lo streaming, è successo un piccolo contrattempino, quindi tutta la pappardella che vi ho appena detto, probabilmente non l'avete sentito, non lo so a che punto siete rimasti, sicuramente è un complotto, è colpa dei fascisti, ovviamente avevo detto tutte delle cose belle sulla resistenza, su un sacco di cose importanti, probabilmente ve le siete tutte perse, vi resta almeno il brano che a questo punto vi faccio riascoltare, tra l'altro non vi avevo neanche detto di chi era, erano i Labile e Istante di Vuoto che rifacevano questa cover dall'originale di Giorgio Canali. Schiava il vento nella canna del fucile. Rossa primavera alla fine di aprile, poi venne maggio, l'ordine di disarmarci, caro Valerio, non dovevamo fermarci. Del re al cimitero, e invece sono ancora tutti là con sorrisi sbagliati, sono là i figli e i nipoti vincenti ed arroganti con proiettili a testa, caro il mio colonnello, e non smettere di giocare alla conclusione di questa scaletta dedicata alle lettere, ai rapporti, rapporti epistolari, insomma, alle missive, ai postini, a quant'altro. E prima di salutarci vi lascio con un brano, perché è un po' che non vi metto il rock and roll, quindi almeno non di quello classico. Vi ho messo i Cramps, ok, la scorsa volta, ma qui siamo invece un po' più sul classicone, e quindi vi metto Buddy Holly. Buddy Holly con Mailman Bring Me No More Blues, basta blues, basta blues, per favore, postino, tettelo per te, un brano del 1957 che tra l'altro, siccome non so se lo sapete, ma i Beatles erano un tantino in fissa con Buddy Holly, ne hanno fatto delle cover, si sono comprati peraltro i diritti ufficiali su Buddy Holly, questo la dice lunga su che personaggi fossero, e ne hanno fatto una cover anche di questo brano. Vi lascio quindi con, però ovviamente, amica, vi faccio sentire i Beatles, con l'originale di Buddy Holly, e vi saluto, vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre intorno circa alle 8, e vi ricordo di rimanere sintonizzati su Radio Wombat, perché comunque proseguono le repliche, prosegue la bobina, e insomma vi teniamo compagnia per tutto il tempo, notte, giorno e quant'altro. Ci risentiamo appunto martedì, a presto, ciao ciao. Sad night. me. She's no longer mine. It's a mailman that'll do for some time. All I